Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Mangiavo a casa soltanto a mezzogiorno. Sedevamo in silenzio, mia madre e io, alla grande tavola nella spaziosa sala da pranzo, l'uno di fronte all'altra. Il posto del mio defunto padre, a capotavola, restava vuoto. E ogni giorno, secondo le disposizioni di mia madre, le posate e un piatto vuoto venivano portati in tavola per l'eterno assente. Si può dire che mia madre era seduta alla destra del defunto, io alla sua sinistra. Lei beveva un moscatello biondo, io una mezza bottiglia di Vöslauer. Non mi piaceva, avrei preferito del Borgogna, ma mia madre aveva stabilito così. Ci serviva il nostro vecchio domestico Jacques, con le sue mani tremolanti di vegliardo, nei guanti bianchi come neve. I suoi folti capelli erano quasi dello stesso bianco. Mia madre mangiava poco, in fretta, ma dignitosamente. Ogni volta che alzavo lo sguardo su di lei, la abbassava sul piatto. Eppure, un attimo prima, me l'ero sentito addosso. Sapevo benissimo che aveva molte domande da rivolgermi e che le rintuzzava solo per risparmiare a se stessa l'umiliazione di venire ingannata da suo figlio, dal suo unico figlio. Con cura ripiegava il tovagliolo. Erano questi gli unici momenti nei quali avevo agio di osservare il suo viso largo, ormai un po' floscio, e le sue molli guance cascanti, e le palpebre pesanti, rugose. Fissavo il suo grembo, su cui ripiegava il tovagliolo, e pensavo con reverenza, ma al tempo stesso anche rimprovero, che là era l'origine della mia vita, il caldo grembo, il luogo più materno di mia madre. E mi stupivo che io potessi sederle di fronte così muto, così testardo, anzi così inflessibile. E anche che lei, mia madre, non trovasse parole per me e palesemente avesse soggezione di questo suo figlio già grande, cresciuto troppo in fretta, né più né meno come io di lei, già vecchia, invecchiata troppo in fretta. Lei che mi aveva dato la vita. Come le avrei parlato volentieri del dissidio che era in me, della mia doppia vita, di Elisabeth, dei miei amici. Ma era evidente che non voleva udire nulla di tutto ciò che intuiva, per non essere costretta a rimproverare a voce alta quello che in silenzio spregiava. Forse è probabile che anche lei si fosse arresa all'eterna crudele legge di natura che obbliga i figli a dimenticare presto la loro origine, a tenere le loro madri in conto di vecchie signore, a non rammentarsi più del seno dal quale accolsero il loro primo nutrimento, legge immutabile che obbliga anche le madri a vedere i frutti del loro ventre farsi sempre più grandi, sempre più estranei, con dolore dapprima, poi con amarezza, e infine con rassegnazione. Io sentivo che mia madre parlava così poco perché non voleva farmi dire cose per le quali avrebbe dovuto risentirsi con me. Ma se fossi stato libero di parlare con lei di Elisabeth e del mio amore per questa ragazza, probabilmente avrei profanato, in un certo senso, lei, mia madre e me stesso. Qualche volta ero stato infatti sul punto di cominciare a parlare del mio amore, ma mi venivano in mente gli amici e anche il rapporto che essi avevano con le loro madri. Avevo la sensazione infantile che una confessione potesse tradirmi, come se tacere qualcosa alla propria madre non fosse in ogni caso un tradimento di se stesso, e per di più un tradimento di questa madre. Quando i miei amici parlavano delle loro madri, io mi vergognavo tre volte, cioè per i miei amici, per mia madre e per me stesso. Parlavano di loro pressappoco come se parlassero di quelle liaison che avevano troncato o che avevano lasciato da parte. Quasi si trattasse di amanti invecchiate troppo presto, o peggio ancora, come se le madri fossero poco degne dei loro figli. Erano dunque i miei amici che mi impedivano di obbedire alla voce della natura e della ragione, dando libero sfogo tanto al mio sentimento per l'amata Elisabeth quanto all'amore filiale per mia madre. Se non che doveva ben presto apparire che questi peccati che i miei amici e io ci addossavamo non erano affatto nostri personali. bensì soltanto le deboli avvisaglie dello sfacelo che ci attendeva e di cui racconterò fra non molto. Prima di questo grande sfacelo doveva essere mio destino incontrare l'ebreo Manes Reisiger. Veniva da Zlotogrod, in Galizia. Qualche tempo dopo conobbi questa Zlotogrod e così la posso descrivere. Mi pare importante perché non esiste più, proprio come Sipolie. Fu appunto distrutta dalla guerra. Un tempo era una cittadina, una piccola cittadina, ma una cittadina comunque. Oggi è un prato enorme. D'estate ci cresce il trifoglio. I grilli cantano nell'erba alta, i lombrichi ci prosperano, grossi e inanellati, e le allodole piombano giù per divorarli. L'ebreo Manes Reisiger venne da me un giorno d'ottobre di mattina, più o meno così di buon'ora come un paio di mesi prima era venuto da me il suo amico, mio cugino Branco. E venne con la raccomandazione di mio cugino Josef Branco. «Signorino», disse Jacques, «un ebreo chiede di parlare col signorino». Io conoscevo allora alcuni ebrei, naturalmente ebrei viennesi. Non li odiavo affatto, e precisamente perché a quell'epoca il reale antisemitismo della nobiltà e degli ambienti che frequentavo era diventato una moda dei portinai, dei piccoli borghesi, degli spazzacamini, dei tappezzieri. Questo mutamento era del tutto analogo a quello dell'abbigliamento, per cui la figlia di un usciere comunale appuntava sul cappello della domenica esattamente la stessa piuma di struzzo che una Trautmannsdorf o una Secheny aveva portato 3 anni prima il mercoledì. E proprio come ora una Secheny non poteva appuntare sul suo cappello la piuma di struzzo che ornava quello della figlia dell'usciere comunale, così la buona società, della quale mi consideravo membro, non poteva disprezzare un ebreo, per il semplice motivo che già lo faceva il mio portiere. Andai nell'anticamera, convinto di trovarmi di fronte uno di quegli ebrei che conoscevo e la cui professione sembrava aver impregnato, anzi addirittura plasmato, il loro aspetto fisico. Conoscevo cambiavalute, venditori ambulanti, negozianti d'abiti e pianisti di bordello, ma quando entrai nell'anticamera vidi un uomo che non solo non corrispondeva affatto alla mia consueta immagine di un ebreo, ma che avrebbe potuto perfino arrivare a distruggerla radicalmente. Era qualcosa di sinistramente nero e sinistramente colossale. Non si sarebbe potuto dire che la sua barba, la sua liscia barba nera, anzi bluastra, incorniciasse il viso bruno, duro, ossuto. No! Il viso cresceva direttamente dalla barba, come se questa, per così dire, fosse stata lì da prima, prima ancora del viso, e per anni avesse aspettato di incorniciarlo e di sopraffarlo col suo rigoglio. L'uomo era alto e robusto. In mano reggeva un berretto di reps nero con visiera e in testa portava uno zucchetto di velluto, sul tipo di quelli che talvolta portano gli ecclesiastici. Se ne stava in piedi, accanto alla porta. Enorme, cupo, le sue mani rosse chiuse a pugno, penzolanti, come due martelli, dalle maniche nere del suo caffetano. Dalla fascia interna di pelle del suo berretto di reps tirò fuori la lettera in sloveno, piegata piccolissima, di mio cugino Josef Branko. Lo pregai di sedersi, ma rifiutò, con un gesto timido delle mani. E questo rifiuto mi parve tanto più timido proprio perché espresso con quelle mani, una sola delle quali sarebbe bastata a fracassare me, la finestra, il tavolinetto di marmo, l'attaccapanni e in genere tutto ciò che si trovava nell'anticamera. Lessi la lettera. Gli appresi come l'uomo che mi stava dinanzi fosse Manes Reisiger di Zlotogrod, di professione vetturino, amico di mio cugino Josef Branko, il quale, durante il suo giro annuale attraverso i territori della Corona, dove vendeva le caldarroste, fruiva presso di lui, il latore della lettera, di cibo e alloggio gratis. E come io fossi tenuto, in nome della nostra parentela e della nostra amicizia, a essere di aiuto a questo Manes Reisiger in tutto ciò che egli desiderasse da me. Che cosa desiderava da me questo Manes Reisiger di Zlotogrod? Nient'altro che un posto gratuito al conservatorio per il suo dotatissimo figlio Efraim. Questi non doveva diventare vetturino e nemmeno marcire nelle remote contrade orientali della monarchia. Stando al padre, Efraim era un musicista geniale. Detti così la mia parola. Cominciai col cercare il mio amico, il conte Choinitsky, che in primo luogo era l'unico galiziano fra tutti i miei amici, e in secondo il solo in grado di spezzare l'antichissima, tradizionale, efficace resistenza dei vecchi funzionari austriaci, con la minaccia, con l'uso della violenza, l'astuzia e la perfidia, le armi cioè di una vecchia civiltà scomparsa da un pezzo, appunto quella del nostro mondo. La sera incontrai il conte Choinitsky al nostro caffè Winger. Sapevo benissimo che pregarlo di intervenire a favore di uno dei suoi compaesani Era il piacere più grande che gli potessi fare. Non solo non aveva una professione, ma neppure un'occupazione. Lui, che nell'esercito, nell'amministrazione, nella diplomazia avrebbe potuto intraprendere una cosiddetta brillante carriera e che l'aveva categoricamente rifiutata per disprezzo dei cretini, dei tangheri, dei baggiani, di tutti quelli che amministravano lo Stato e che egli amava definire teste di gnocco, trovava un raffinato piacere nel far sentire la propria potenza ai consiglieri di corte, la potenza effettiva, cioè, che appunto una dignità non ufficiale conferiva. E lui, che era così cordiale, così tollerante, persino compiacente nei confronti di camerieri, vetturini, fattorini e portalettere, che non trascurava mai di togliersi il cappello quando chiedeva a una guardia o a un portinaio una qualsiasi informazione di nessuna importanza, assumeva un'espressione quasi irriconoscibile quando intraprendeva una delle sue azioni di patrocinatore nell'ufficio del prefetto, nel ministero del culto e della pubblica istruzione, una superbia glaciale, come una visiera traslucida, calava sui suoi lineamenti. Se da basso, al portone, davanti al portiere in livrea, era ancora in certa misura affabile, talvolta persino benevolo, a ogni gradino che saliva cresceva visibilmente la sua opposizione nei confronti dei funzionari, finché, giunto all'ultimo piano, dava l'impressione di uno che fosse venuto fin lì per amministrare la giustizia con tremenda severità. In alcuni uffici era già conosciuto, e quando nel corridoio, con voce minacciosamente bassa, diceva all'usciere «Mi annunci al consigliere», era raro che gli si chiedesse il nome, e se non di meno accadeva, egli ripeteva con voce possibilmente ancora più bassa «Mi annunci subito. Prego». La parola «prego», comunque, suonava già più forte. Il conte Czojnicki amava la musica e anche per questo motivo mi sembrò giusto ricorrere a lui per appoggiare il giovane Reisinger. Fu tale la sua prontezza nell'offrire il suo aiuto che cominciarono a venirmi degli scrupoli di coscienza e gli chiesi perciò se per caso non preferiva avere una prova del talento del giovane Reisinger prima di interporre i suoi buoni uffici per lui. Ma questo discorso lo irritò. «Lei conosce forse i suoi sloveni?» disse. «Ma io conosco i miei ebrei di Galizia. Il padre si chiama Manes e fa il vetturino, come lei mi ha appena detto. Il figlio si chiama Efraim e questo per me è più che sufficiente. Io sono convintissimo del talento del giovane. Lo so, grazie al mio sesto senso. I miei ebrei galiziani sono abili in tutto. Ancora 10 anni fa non mi piacevano. Ora li ho cari perché queste teste di gnocco hanno cominciato a fare gli antisemiti. Bisogna solo che mi informi di quali sono di preciso le autorità competenti e soprattutto di quali fra questi signori sono antisemiti, perché li voglio far arrabbiare col piccolo Efraim. E ci andrò col vecchio. Spero che abbia l'aspetto di un vero ebreo. Porta un caffettano di media lunghezza, dissi. Bene, bene, esclamò il conte Chonitsky. Questo è il mio uomo. Sa, io non sono un patriota, ma ai miei compaesani voglio bene. Tutto un paese, una patria, è qualcosa di astratto, ma un compaesano è qualcosa di concreto. Non posso voler bene a tutti i campi di frumento e di grano, a tutti i boschi di abeti, a tutte le paludi, a tutti i polacchi uomini e donne, ma un certo campo, un boschetto, una palude, una persona, alla bonea. Li vedo, li tocco con mano. Parlano la lingua che mi è familiare, sono appunto, per il fatto d'essere singoli, l'incarnazione del familiare. Un vero compaesano, quale intendo io, ti piove dal cielo, come segno della grazia. Se poi per giunta è nato nella mia terra, alla bonea. Ma questo è un caso, l'altro un destino. Alzò il bicchiere e gridò, viva i compaesani, i miei compaesani di tutto il mondo. 2 giorni dopo... gli portai il vetturino Manes Reisinger all'hotel Kremser. Manes sedeva a malapena sul bordo della sedia, immobile, un essere nero, colossale. A vederlo sembrava che non si fosse seduto da sé, che qualcun altro l'avesse messo a sedere per caso sul bordo e che da solo non fosse in grado di occupare tutto il posto. All'infuori delle 2 frasi che ripeteva di tanto in tanto e a sproposito, e cioè «Mi scuso coi signori e ringrazio molto i signori», non diceva nulla e sembrava anche che capisse ben poco. Fu Chojnitsky a raccontare al vetturino Manes di Zlotogrod com'era Zlotogrod, perché Chojnitsky conosceva tutte le località della Galizia. «Allora, domani alle 11 andiamo a sistemare la questione», concluse. «Ringrazio molto i signori», disse Manes. Con una mano sventolò il berretto di Reps e con l'altra sollevò lo zucchetto. S'inchinò di nuovo quando fu sulla porta, che il portiere gli teneva aperta e al quale egli sorrise riconoscente e soddisfatto. Thank you. Luciano Virgilio ha letto La cripta dei Cappuccini di Josef Roth. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Giovanni Pallanti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it